Allora, oggi presentiamo il primo romanzo di Gennaro Ascione, Vendi Napoli e poi muori, che ormai c'ha un po' di anni perché è del 2018, giusto? E Gennaro È anche il primo romanzo che presentiamo. Abbiamo mai anche, presentato romanzi? sì, perché io ho detto che Sì. palle parlare sempre di saggi, portiamo un romanzo. È andata proprio così, con le stesse No, parole. proprio così ho detto, avete Grande, rotto le grande, grande. palle, perché era l'anno scorso abbiamo visto vari testi estremamente interessanti, però erano tutti di tipo saggistico e molti sui temi delle città. E quindi mi è venuto in mente che avevo letto questo libro nel 2016 che mi aveva molto colpito, tant'è vero che ho stalkerizzato Gennaro per un periodo perché ero curiosissima e l'ho regalato a chiunque. E in cui si potrebbe dire che è un giallo, a me non piace pensarlo come giallo, anche se è anche un giallo, è una possibile epoca post-futuristica di questa Napoli dopo una rivoluzione, ed è un intreccio di varie cose perché Gennaro, diciamo, ne sa, e infatti ci sono, diciamo, citazioni che nel costruire questa storia richiamano una cultura non solo filosofica del luogo, in ambito sociologico, e ovviamente c'è una componente politica nella stesura di questo romanzo, cosa che fai anche all'università, all'Orientale, e non so se scrivi ancora per il Corriere del Mezzogiorno, anche lì. Ok. Erano articoli decisamente politici e che attraversavano molte delle tematiche, che nel romanzo vengono descritte diversamente. Non so se ce ne vuoi parlare tu, o continuo. Un altro po', dai. Ok, l'altro po'. Portaci in giro, Va chiaro. bene. Ho bisogno anche di sentire. Giusto per non sentirmi in imbarazzo. No. E ci sono delle trovate, secondo me, esilaranti in questo testo che può cogliere sia una persona che appartiene alla città di Napoli, sia una persona che si approccia alla conoscenza di questa città. Il tema affrontato è appunto che cos'è questa napoletanità e che fine ha fatto, chi la vuole preservare, chi la sta in realtà distruggendo, smembrando, e legato a tutta una serie di cambiamenti che la città sta subendo in merito al fenomeno di comunque un'espansione di turismo interessato a quel cliché a cui sono abituati dai social media, perché se non c'è il napoletano che parla in napoletano a un certo punto in un reality non va bene. Se una cosa succede a Napoli e la stessa cosa è successa da un'altra parte, deve essere la macchietta e si deve andare a sviscerare, deve finire per giorni. Anche notizie di pochissimo interesse, però si parla di Napoli. E è un giallo perché appunto ci sono una serie di episodi anche violenti, anche pulp, questo romanzo secondo me, già il Gabbiano è pulp. E allora io ho una domanda innanzitutto perché questo romanzo è stato scritto comunque in un momento in cui la città di Napoli non era quello che è oggi, cioè sciacallaggio, almeno per i miei occhi, di una persona che non vive più in quella città, uno sciacallaggio sulla città a livelli esponenziali, forse addirittura di più di quello che è stato fatto su Milano, perché è proprio un procedimento diverso. È proprio e lui cerca di spiegarlo, diciamo, attraverso personaggi diversi. E quello che ti volevo chiedere è appunto la differenza, cioè se tu oggi ripensi a questo tuo romanzo e a quando l'hai scritto, in cosa vedi che possiamo ancora andare a peggiorare e su cosa oggi ti focalizzeresti probabilmente per un romanzo sulla città, comunque ancorato alla città? Grazie per questo pessimismo che io condivido appieno. Totale. Cioè, no, no, non vedo nessun indicatore che potrebbe invertire questa tendenza, quindi mi sento a mio agio rispetto a quello che hai detto in introduzione. Grazie per ospitarmi qui e in questo spazio. Sono contento che inauguriamo questa cosa con un romanzo che comincia come un saggio, però poi nella scrittura io mi sono liberato anche del fatto che ho questo background di scienze umane, quindi delle cose le volevo raccontare con il romanzo perché aveva più presa, mi consentiva una libertà espressiva maggiore. Quello che vedo, hai ragione a dire che sono due processi differenti, quello, per esempio quello di una città come Milano rispetto a quello che succede a Napoli, perché a Milano c'è almeno un'idea, una pianificazione in qualche modo, no? Ci sono delle direttrici di pianificazione macro che in qualche modo sono state avviate, certo incontrano delle difficoltà, cambiano per strada, però grosso modo c'è un'idea di come la città si deve espandere, di come gli indici di fabbricabilità devono aumentare o di come deve costare di più quella zona e quindi come si deve vendere e speculare sullo spazio e quindi sulla vita delle persone che ci abitano. A Napoli questo processo è stato praticamente improvvisato, cioè si è cominciato con il fatto che arrivavano i turisti che non si fermavano più soltanto per andare a Capri, quindi non arrivavano soltanto le signore americane che dicevano awesome, awesome, great, fantastic, amazing, appena vedevano uno vestito da Pulcinello, wow, great, però poi si mettevano nel treno, andavano a Pompei, a Sorrento oppure prendevano il traghetto per Capri perché erano terrorizzate dal fatto di stare a Napoli. Mano a mano questa cosa invece è diventato che Napoli è un approdo, quindi la gente ci sta, pure se è un turismo morti e fuggi, ed è successo poi quello che è successo in altre città come Venezia, cioè si comincia con io a casa c'ho una stanza in più che mi affitto a nero su Airbnb. Poi qualcuno dice, papà, visto che abbiamo i soldi, perché non ce la compriamo una casa al centro storico così che ci fittiamo l'intera casa? Certo, papà, così ti metti a fare l'imprenditrice. Va bene, e intanto cominci a levare da mezzo gli studenti che fino a quel momento avevano sorretto l'economia del centro storico pagando affitti al nero. Quindi gli studenti sono stati le prime vittime a essere espulse, poi le famiglie del centro storico, poi invece di papà perché non mi compri una casa cominciano ad arrivare quelli che veramente mettono i soldi, no? Chiaro, tu lo sai meglio di tutti in questa stanza, forse insieme al tuo collega, no? Quelli che quando il tasso di profitto è maggiore del 2,5% per un periodo di 3 anni, boom, a valanga dei milioni di euro, perché sappiamo che il rendimento è certo, quindi il profitto a noi 2% sembrano bazzecole, ma per chi investe milioni e milioni di euro nel lungo periodo basta una percentuale davvero minima per investire e quindi comprare interi palazzi e cambiare le destinazioni urbanistiche di intere città. Quindi questa è una grossa differenza che poi però nel lungo periodo poi avvicina, certo, le due città, no? Perché più o meno quello succede. E a Napoli in più ci sta questa dimensione identitaria, culturale, etnica, che è la cosa a cui accennavi tu, per cui io in quanto napoletano non posso non fare il napoletano. Cioè io comunque anche stasera mi troverò a dover fare il napoletano. Prima o poi io dovrò fare una battuta simpatica, perché sennò l'esperienza non è reale. Così che se vieni a Napoli una pizza fritta non te la mangi? Io sto in questo collettivo che si chiama Napoli Segreta, abbiamo riscoperto questi disco music funk anni 70 e il primo pezzo da cui abbiamo cominciato questa operazione è un pezzo di questo giovane cantante che si chiamava Patrizio, che incise in 45 giri, che cantava tu sei venuta a Napoli e non ti sei fatta a rubà, che sei venuta a Napoli. Cioè questo è proprio per noi il manifesto della cosa, capito? Non hai vissuto l'experience. Esatto, non è full experience, non ti fai rubare, non prendi il pacco, non ti fai fare il gioco delle campanelle, non compri sigarette di contrabbando, non mangi frittura, non c'è un napoletano che prova a prenderti dei calzini o un cornice, cioè che te ne vai, va a provino. Vedete, mi scappa il napoletano. Vabbè, lo dovevamo fare, abbiamo archiviato la pratica per la serata. A posto, abbiamo risolto la problematica. E a una domanda che avevo in mente, appunto, mi hai già risposto, quindi tu non vedi una deriva possibile. Esatto, cioè nel senso che mi è capitato proprio ultimamente di essere nella mia città e di parlare con due miei amici che lavorano entrambi, chi all'università, chi al liceo, probabilmente li conosci anche. E quindi ci Ci stiamo, salutiamo li salutiamo da casa. Ciao Jamil, ciao Vladimiro. Qui ci stiamo facendo queste mega seghe intellettuali su cosa sarebbe potuto succedere a Napoli tra 10 anni e se ci poteva essere una spinta rivoluzionaria. E io ero la più negativa, ovviamente, di tutti, che te lo dico a fare nel dire no, perché io qui noto un abbruttimento anche dal basso, no? Di cercare di ottimizzare al massimo questo processo. Mo ci dobbiamo mangiare, cioè mo e c'è questo atteggiamento proprio post-guerra, mo dobbiamo mangiare su questa cosa. E quindi loro invece credevano in questo spirito rivoluzionario napoletano che si sarebbe palesato a un certo punto facendo abbassare questo fenomeno. Ok, rimaniamo sul sociologico, Esatto. poi parliamo della storia. Ok. Allora, come capita in tante città, ci sono alcuni quartieri che vengono investiti prima da questo processo di turistificazione o di gentrificazione. E a Napoli c'è questa peculiarità per cui il centro storico comunque è abitato storicamente dalle classi popolari, che per lo più la città ha una struttura della proprietà privata diversa da altre città, perché molto spesso i ceti popolari sono proprietari delle case in cui vivono, no? Quindi, per esempio, quartieri spagnoli e sanità, diciamo il 30-40% della popolazione che sta magari in fasce di reddito prossime alla soglia di povertà, però è proprietaria della casa in cui abita, anche se ci sono molte persone che coabitano. Quando è successo questo processo all'inizio? Il libro è uscito nel 2018 grazie al visionario editore magmata che è Alfonso Gargano. C'è sempre una prima volta. Esatto. Milano Sud, Milano Sud. E quindi nel libro del 2016, esce nel 2018, si vedevano alcune cose. I quartieri spagnoli, il libro comincia proprio così, stavano vivendo in quel momento i primi sintomi di questa trasformazione. E quindi quando sono cominciati ad arrivare i papà comprami la casa, nei quartieri spagnoli molte delle famiglie storiche hanno venduto. Dopo qualche anno, che invece il processo era evidente, le classi popolari di altre zone, come la sanità, hanno visto quello che era successo di là e non stanno vendendo, ma stanno investendo loro dentro ai quartieri per sfruttare questa ondata del turismo. Ora, questa cosa visto che siamo in un ambiente di cui io condivido le sensibilità, è chiaro che si offre una doppia lettura, no? Perché dice, per un verso offre una doppia lettura, perché per un verso dice, ok, si abbassa per esempio il livello di criminalità, le classi popolari dei quartieri del centro storico investono in questa cosa e ci campano, e come ci campano loro, magari ci campano anche le generazioni successive. Quest'altra cosa significa però comunque rinforzare quel processo di distruzione in qualche modo del centro storico come posto dove per esempio ci possono arrivare gli studenti da fuori, tant'è vero che c'è stato un abbattimento proprio demografico delle persone che abitano a Napoli, che sono state sostituite da gente che fa o turismo mordi e fuggi oppure che compra case per tenerle sfitte. Quindi a Napoli la peculiarità è che questa cosa è abbastanza ambivalente. Quindi è vero che c'è il processo di turistificazione, però dobbiamo anche dire che negli ultimi anni questa cosa ha dato la possibilità a alcune frange delle classi popolari di poter investire in questa cosa. Ora, se poi andiamo a vedere più da vicino la fisionomia di questi gruppi, è chiaro che molti, per esempio, non per fare sempre quello che è critico o utilizza una sfera, un prisma deteriore, però quelli che potevano permettersi degli investimenti erano quelli che in qualche modo o avevano liquidità o accesso al credito indiretto, oppure facevano parte di network di controllo del territorio per cui era più facile accedere, per esempio, alle case delle aste fallimentari, no? Chi è che a Napoli si va a mettere in un'asta fallimentare alla sanità? Cioè, devi essere, o devi pagare l'avvocato, cioè, comunque sono situazioni borderline. A Napoli vengono gestite in maniera territoriale, spesso anche da gruppi criminali, quindi comunque la parte che in qualche modo si sta ulteriormente radicando. Probabilmente una parte che è o proletariato informale oppure sottoproletariato in qualche modo legato a un sistema o informale o criminogeno, per usare un termine. Bravo a interromperti, eh. Chiara fa questi suggerimenti. Prego. Allora, il problema vero è il mio ruolo all'interno di questa cosa, perché essendo io un settentrionale di merda, possiamo dire tranquillamente, con tutte quelle vicende di colonialismo interno, eccetera, eccetera, ovviamente si pone un po' anche il giochino simpatico del fatto che alcuni pezzi del libro, giustamente scritti in dialetto, non ho capito un cazzo, perché non riuscivo a capire quello che stavo leggendo, perché mi sfuggivano le parole, le inflessioni, gli accenti, ogni tanto ho capito, ho sfoderato, dicevo prima Chiara, tutta la mia competenza in napoletano in 10 anni di ascolto assiduo dei 99 posse, perché era l'unica fonte di qualche maniera di alfabetizzazione sul genere, ma quello che mi pare di capire è che è un romanzo giustamente su Napoli e su chi si è mangiato Napoli. A parte il fatto che secondo me nel libro ci sono dei bellissimi pezzi che non riguardano la storia del libro, ma sono dei voli favolosi, c'è uno meraviglioso su un ritmo di percussioni che è nato in Africa e ha conosciuto una linea di basso e poi sono divise per la storia, sono incontrate in uno studio e poi sono finite nel disco che mette il DJ in quella sera, meraviglioso, 10 pagine di voli incredibili, ce ne sono tanti nel libro, sono veramente fantastici. Io man mano che arrivava la fine del libro, io continuavo pressato dall'ansia milanese di dover produrre qualcosa comunque, per necessariamente, poi figurarsi in confronto con la napoletanità, era una roba, faceva pugni come stesso nel mio cervello, mi sono detto, ma di cosa parla questo libro? E ho cercato di capirlo, e una cosa che mi pare di capire è che parla comunque di qual è il grosso male di Napoli, qual è, punto primo, Milano non parla dei mali di Milano, la gente di Milano non parla di Milano perché non è di Milano, perché i milanesi è vero non esiste più, siamo diventati il luogo di arrivo di un sacco di gente da un sacco di parti d'Italia e non solo dal sud, anche dal nord, per cui la milanesità ormai si è completamente persa, è rimasto soltanto appunto questa folle idolatria del lavoro, della produzione e la voglia di fare i soldi, che sono le cose forse meno locali del mondo, cioè le portano dagli Stati Uniti, America ovunque, per cui molto international come cosa. La questione è che tante pulsioni ci sono dentro Napoli, la napoletanità, il fatto di farsi a pezzi da sé. A un certo punto, mi pare che nel libro se ne parla appunto in relazione anche c'è una parte un pochino più chiara dove parli proprio dei gruppi criminali, della camorra, del sistema, che è la parte più evidente. No, forse parla a un certo punto dei napoletani, quelli furbi, che cercano di farcela sulle spalle degli altri e che nel libro emerge essere uno dei tratti tipici di Napoli. E la summa di questa cosa è tutto il progetto che c'è, diciamo che c'è, a un certo punto emerge nel thriller del libro, che riguarda un po' tramutare Napoli, un enorme laboratorio a cielo aperto per malati oncologici, di cancro, di tumori, e quindi tutti riporta tutta quanta la storia della terra dei terra dei fuochi, l'interramento di rifiuti tossici da tutta Europa perché fa comodo a tutti i nord d'Europa di scaricare nei sud d'Europa la loro merda per poter continuare a produrre capitalisticamente. E quindi mi sono domandato se questo è un libro che parla dei mali di Napoli e se il male più grande di Napoli è questo, cioè farsi del male da soli, arrivando a mettersi sotto il terreno, sotto i propri campi e le mozzarelle che vengono blu, per guadagnarci sopra. Cioè, questo è veramente il cuore del male di Napoli. Napoli è come quando diciamo popolo, cioè un contenitore unitario dentro cui poi non vediamo le differenze, perché è vero che sono napoletani quelli che seppelliscono i rifiuti, ma sono napoletani pure quelli che stanno là e non lo sanno, quindi la questione è chi fa cosa, cioè è una frattura secondo me di classe proprio in termini di chi fa cosa utilizzando quali risorse, perché Napoli sta in una direttrice di traffico di rifiuti internazionali che arrivava fino in Somalia, no? Ilaria Alpi è stata ammazzata per questo, perché aveva scoperto che c'era una rete internazionale che passava per Napoli e che poi negli anni si è pure fermata a Napoli, perché ha trovato delle connivenze tali per cui era possibile veramente fare ma questi sono dati, cioè la Campania è la Campania è la regione più giovane d'Italia, ma perché c'ha il tasso di mortalità più alto, cioè c'ha l'aspettativa di vita minore, quindi nelle statistiche esce che è più giovane, ma non è che è più giovane, è che si muore prima, quindi capito? Perché? Perché, perché effettivamente poi vai a vedere i dati come vengono prodotti, no? Quindi effettivamente c'è questa cosa. Io a un certo punto volevo creare un piano che fosse quello di una mega cospirazione, che però è quella forse la parte più reale, Cioè, perché volontariamente o involontariamente viviamo in dei territori, ma non soltanto la Campania, penso alla Pianura Padana e ad altri posti che si sono prestati negli anni all'insaputa di gran parte della cittadinanza, quindi Napoli e napoletani non significa niente, non significa niente il padano, no? Però questa cosa a Napoli perché funziona di più? Perché noi, nel momento in cui rinforziamo in maniera iperculturalista questo piano identitario, stiamo di fatto facendo il gioco di chi vuole che non si vedano le differenze, perché siamo tutti napoletani, capito? Come quando durante il Covid eravamo tutti sulla stessa parte. Esattamente, ma non stiamo, cioè qualcuno sta sulla scialuppa di salvataggio mentre gli altri affondano. Esatto. Questa è la cosa di Napoli, è questo... E questo crogiolarsi su questo piano identitario che in qualche modo ci piace suonarci. Anche perché ci hanno levati. Però, per esempio, parto da anni fa leggevo su, non mi ricordo più quale social, di questo fatto, si commentavano come sconti tra ultras. Sei uno dei, dei commentatori, dei grandi intellettuali che commentava, diceva: in Italia un livello del genere di voglia degli ultras di fare a botte, di fare gli ultras, non esiste più, se non nei paesi piccolissimi oppure Napoli. L'unica cosa che veniva riconosciuta è che la tifoseria napoletana ancora con la voglia di sfoderare mannaie, no, staccare testa. Ma ok, sei informato. No, ma aspetta, ti fermo, era soltanto il lancio della domanda. La questione è questa: della mia visione da settentrionale idiota, quindi sicuramente culturalmente dicono che sono molto più pazzi. Perché a me è un po' così. No, la questione, non volevo scivolare su questa buccia di banana del calcio, è andata così. Tanto c'è un bellissimo passaggio nel libro, tanto che sono a colloquio San Gennaro, un prelato e la, come si dice, Perpetua Concettina, e quindi c'è Concettina che a un certo punto accusa il prelato di essere un tifoso occasionale. Non capisci che vincere è più importante? San Gennaro dice sì, è così. Quindi poi architettano tutta una storia incredibile, favolosa, anche quel pezzo lì. No, la cosa che stavo pensando è, cioè, per me che sono di Milano, Napoli è popolo. E tra l'altro questa cosa c'è attacco poi anche la domanda che faremo dopo, in quanto popolo è anche stata capace negli ultimi anni di produrre veramente del pensiero di sinistra, popolo anche perché non ha mai rinunciato alla sua volontà di avere un'identità passata tramite il linguaggio. E infatti non mi ricordo più, commentavo con un compagno che adesso naturalmente non c'è, che anche lui di origini di Napoli, commentavamo con lui che c'è, i napoletani sono stati capaci di inventarsi delle parole per tradurre all'inglese che in italiano non ci sono. Per cui tu hai delle parole, non mi ricordo adesso qual è la parola, ovviamente mi verrà in mente, che è una italianizzazione, una napoletizzazione di un termine che non c'è in italiano. E ho detto, vedi, c'è la forza di un popolo è quando reattivamente reagisce e trova il suo termine per dire una roba che nella lingua corrente non c'è. Quindi la cosa che mi domando è, cioè, Napoli si divora da se stessa, si fa del male, è una scatola complessa, ma forse anche perché Napoli è ancora, ovviamente questa è una generalizzazione stupida, ma vabbè, è veramente una città popolare, c'è veramente un popolo napoletano, mentre i lombardi sono, se vogliamo, lavoratori e lavoratrici, imprenditori e imprenditrici, sono poveri povere, ma non sono un popolo, non sono più, boh, non so, una cosa che si distingue dal resto, che ha delle tradizioni, delle culture. Mi ci fai pensare, io ho una istintiva idiosincrasia verso questa questione identitaria, perché ne vedo gli effetti delle terre, francamente. È innegabile che nella costruzione storica di che cosa sia la città di Napoli contano tanti fattori, conta sicuramente anche il fatto che, per esempio, nel processo dell'unità d'Italia quella era la capitale del regno più grande, e quindi, ma io non sono cioè, lungi da me qualsiasi tensione o neoborbonica, cioè a me fanno proprio cacare, quindi il libro di cui parlavi prima, io ho sentito e dicevo, cioè, ma non puoi dire che il processo di colonizzazione è simile a quello del disastro in Palestina, perché anche terminologicamente, no? Perché c'è tutta questa retorica meridionalista per cui colonialismo interno, no. Colonizzazione è che io vengo dove stai tu e ti prendo a calci in culo, ti ammazzo e ti spazzo via. Colonizzazione. Colonialismo è che in qualche modo trovo forme dirette o indirette per sfruttare le tue risorse, ok? Colonialismo interno, nel caso dell'unità d'Italia, storicamente non funziona, capito? È una cosa che non sta in piedi, sta in piedi soltanto nei momenti in cui bisogna invece lavorare politicamente su questa cosa, cioè mobilitare questa cosa. Allora, per fini elettorali, per esempio De Magistris ha spinto un sacco all'epoca su questa questione identitaria, no? Cioè ci ha rotto proprio gli zebedei su questa cosa che Napoli era diventata la capitale di una ipotetica rivoluzione da sud, ma era per fare il secondo mandato da sindaco, però un sacco di gente se l'è bevuta. E quindi questa costruzione identitaria è diventata ipertrofica fino a risolversi in quello che vediamo adesso. Vuole stampare le banconote del Noring di Napoli. Cioè, sì, sì. Nel libro ci sono molte citazioni sia a determinati fenomeni presenti a Napoli, quindi alcuni cambiati semplicemente di nome ma assolutamente riconoscibili, e dei riferimenti a De Magistris. Sì, uno in particolare, ma ve lo leggo. Sì, vai. Che De Magistris è un mitomane. Diciamocelo. Cioè, possiamo dirci. Ce lo possiamo dire ora. Cioè, possiamo dircelo. Non so, cioè, a me pareva evidente, eppure non sono uno psichiatra, però alcune cose mi sembravano da manuale. Allora, vediamo un po' se... Difficile, perché Vogel è pure simpatico, capito? No, esatto. Pare che vuoi fare tu l'antipale, no, va detto. Allora, certo, vi spiego praticamente che succede. Succede una serie di omicidi a catena, per cui poi questo killer o questo gruppo non si capisce bene. Sì, non si capisce bene. Comunque questi omicidi a catena vengono in qualche modo rivendicati attraverso i social con un hashtag che vendi Napoli e poi muori. Quindi gli inquirenti cominciano a cercare un po' degli indizi e vabbè, leggo. Il web era impazzito. In poche settimane l'hashtag vendi Napoli e poi muori era diventato un meme popolarissimo, era dappertutto. Nel marasma dei tag e dei controtag, la polizia informatica aveva messo gli occhi sull'attività intensa di un utente che inondava pagine personali e profili pubblici con vendi Napoli e poi muori. Cantanti, attori, showman, giornalisti, blogger, calciatori, vallette, politici locali e nazionali, autorità ecclesiastiche, ditte di trasporti, imprese di pulizie, ordini professionali, assicuratori, proloco, dopolavoro ferroviari, comunità di toilettatori per cani, associazioni di napoletani all'estero, comitati per la salvaguardia del San Pietrino, aziende vinicole, ONG agroalimentari a chilometro zero, leghe anti-racket, associazioni anticamorra, scuole materne, fanzine su film horror, la lega dei birrai napoletani, ristoranti vegetariani e vegani. Chiunque avesse in qualche modo a che fare anche solo lontanamente con Napoli, perfino i singoli utenti privati che in un loro precedente post o commento avessero menzionato Napoli, i napoletani o la napoletanità, vedeva apparire vendi Napoli e poi muori. Lo spamming dava all'utente in questione un grande affare, dal momento che la serie di omicidi aveva moltiplicato all'inverosimile l'utilizzo della radice della parola Napoli. Gli esperti tuttavia non avevano creduto neanche per un minuto che dietro quello spam compulsivo potesse celarsi anche solo una minima traccia che avrebbe potuto condurli al mostro che stava terrorizzando la città. Chiunque stesse subissando la rete con segni della sua presenza corrispondeva in tutto e per tutto a un profilo psicopatologico deviante ben preciso. Non si trattava di un emulo, visto che i delitti si erano fermati, piuttosto di qualcuno che esorcizzava i suoi squilibri vivendo nel mondo fittizio formato dalle proiezioni distorte del suo straripante protagonismo, perverso egocentrismo e delirante narcisismo, un mitomane. Inoltre, il mitomane aveva dato al suo avatar un nome affatto riconoscibile, Funiculi Funiculà. Fu solo per zelo e per rispetto del protocollo investigativo che gli inquirenti si misero sulle tracce e in pochi minuti risalirono all'IP del suo computer per raggiungerlo nella sua casa del Vomero. Era un anziano ex magistrato in pensione. Quando bussarono alla porta, Dragomira, l'arcigna badante, indicò loro la stanza dove lo avrebbero trovato. Lui li accolse in piedi sul tavolo della sala da pranzo in vestaglia di raso griffata. Dalle sue tasche fuoriuscivano degli spaghetti scotti appiccicaticci. In una mano reggeva la maschera di Pulcinella verso cui intonava rapito, a fronde limone, «So bambanella e coppe quartiera, per tutta Napoli faccia parla». E questo è il sin. Sulla Zampa, presentazione del libro con teatro incorporato. Meraviglioso, meraviglioso. Vedi, io il riferimento non l'avevo capito. Spiace, sai che mi ero perso sulla canzone che ho cercato di tradurla, ma non ho messo il nome. Esatto. Neanche una storpiatura del nome. Ma infatti guarda, io giustamente mi hai bruciato la domanda, ma perché era ovvio. Cioè, dai toni vagamente sinistreggianti, questa ipotetica rivoluzione napoletana, immagino che fosse un modo un po' per scimmiottare, deridere o puntare il dito su quanto di poco credibile c'è stato fatto da questa, le due amministrazioni De Magistris. Quando in realtà, lo dico da persona in movimento, e magari le altre persone di Zama in realtà non la pensano così, ma io la penso così, potere al popolo, le giunte di De Magistris, la gestione di Napoli, sono state un pochino, non so, a mia personale opinione, un po' una boccata d'ossigeno, perché sembrava che da qualche parte del mondo, in Italia, nel sud Italia, se dicevi cose di sinistra non venivi soltanto spazzato via, disintegrato e non contavi niente, ma addirittura governavi, e forse addirittura governavi anche bene. Cioè, noi abbiamo alcuni rapporti con Spazi Occupati di Napoli, che forse è l'unica città che li vede in crescita, in consolidamento, in ampliamento, anche in azione reale per fare qualcosa, mentre tipo a Milano ormai Zamma è pieno di gente che ci viene a chiedere di fare cose perché i centri sociali sono sempre meno. E per cui volevo chiederti qual era il rapporto di questo libro, questa storia è tuo, con il fenomeno dei Magistris. Ti posso dare degli elementi che magari... Se vuoi smettiamo di registrare, poi dopo ricominciamo. Quando è uscito il libro non è un problema. Cioè, mi facevano la guerra a più parti, ma non per protagonismo, ma è successo, perché poi nel frattempo, cioè, comunque facevo pure altre cose, quindi effettivamente il libro poneva una questione in sostanza, no? Perché così come la napoletanità, anche questa cosa dei movimenti era un prodotto da esportazione, perché magari dall'esterno funziona ed ha anche senso che funzioni, cioè vedere che è possibile un rapporto istituzionale con i movimenti secondo anche delle teorie politiche precise, per esempio la Clau e MUF, quindi il populismo di sinistra come era successo anni prima in America Latina, quindi era, come dire, era divertente decostruirlo perché dietro c'era anche una teoria, quindi era bello il confronto, no? È come tu hai un nemico e vale la pena di batterti perché quello dietro c'ha un background teorico sul quale confrontarti. Adesso su che ti confronti con la giunta Manfredi? No, non c'è questa cosa. Cioè devi soltanto dire che si stanno mangiando la città, però nel mangiarsi la città stanno andando a incassare tutta una serie di processi che la giunta dei Magistris ha avviato. Cioè questo è storicamente così. Ripeto, lo dico sempre, se un'altra giunta di un altro colore politico avesse avviato i processi che ha avviato la giunta dei Magistris a Napoli, i movimenti avrebbero fatto le barricate, ma siccome era una giunta ideologicamente prossima e in più c'era stata la famosa delibera sui centri sociali che in qualche modo consentiva degli spazi occupati di essere gestiti da movimenti, allora questa situazione ha calmierato e soprattutto ha fatto mettere i paraocchi su una serie di cose che però erano evidenti. Il sindaco si andava a vantare dell'aumento dei posti di lavoro e all'agenzia delle entrate non era registrato un solo contratto in più, quindi vuol dire che tu ti stai rivendicando il lavoro a nero, per esempio, in un posto come Napoli in cui l'informale è stata la iattura, è stato il bacino di utenza, di reclutamento della manodopera della criminalità, quindi tutta una serie di cose erano molto ipocrite e molto ideologiche. Questa è la questione cruciale, su cui anche con i compagni spesso la frattura è sostanzialmente quella, è la valutazione storica di un percorso che passava per un'alleanza con delle istituzioni per avere in cambio che cosa? Degli spazi, perdendo però completamente di vista quello che stava succedendo nella città. Cioè si faceva la critica a quello che succedeva a Barcellona, ma non si vedeva che gli affitti stavano aumentando del 50% in due mesi. Sì, sì, no, ma è... No, esattamente così, nel senso che ricordo anche io il periodo del doppio dei Magistris in cui era facile trovare un'opinione molto morbida nei confronti dei Magistris con compagni che non avrebbero assolutamente accettato le stesse misure se la bandiera fosse stata diversa. E questo era un po' angosciante, nel senso che dici, ma con questa persona ci ho condiviso una serie di visione, no? Di dove si sta andando, ora non ci capiamo più. E qualcuno ha qualche domanda, curiosità, perché poi noi siamo partiti un po' a ruota. Vai. Però microfono, se no ti si registra. Poi fa parte della commissione, quindi ci permettiamo. Eccomi, ciao, piacere, Laura. Esatto. E bello poi... tu hai lavorato all'Orientale, giusto? Ah, insegni ancora, giusto? Bello, condividiamo l'università. Io ho studiato lì per il dottorato ed è bello. Sì, è bello vedere qualcuno dell'Orientale. Con Sommella, ahimè. Oggi facciamo proprio nomi e cognomi. Ci siamo capiti. Altro che vendi Napoli e poi muori. Ascolti Radio Zam e poi muori. Va bene, no, e allora io sono arrivata a Napoli tra il 2017 e il 2018 e quindi ho vissuto in seconda persona, un po', cioè non so come dire, post un po' alcuni discorsi, alcune cose che ho visto, che avete accennato adesso, e soprattutto la questione dei magistris. Vorrei semplicemente, se puoi approfondire un pochino di più quello che hai vissuto tu in prima persona durante questo periodo di ribaltamento della narrativa. E, sì, perché poi comunque anche i collettivi politici sono molto attivi, accoglievano con piacere appunto De Magistris e anche la partecipazione che lui offriva rispetto a un sacco di proposte, di iniziative, che sono d'accordo che su tanti fronti non era l'ideale, però era molto meglio di quello che si vedeva accadere in altre città rispetto al rapporto con un sindaco della città. Questo non è per dire che il meno male va bene, però comunque mi era sembrata a me un'esperienza molto positiva, invece non, appunto, non per dire che De Magistris fosse un santo, però da quello che vedevo attorno appena arrivata e tutto, che tutti erano abbastanza felici di quello che era stato fatto e che si riusciva a fare, vorrei capire meglio questa cosa qua. Grazie. Di tranciando oppure tagliare con l'accetta processi reali che sono accaduti in città durante gli anni della giunta, però dobbiamo un attimo collocare storicamente anche il successo, per esempio, di quell'amministrazione. Noi venivamo da anni della crisi dei rifiuti, non so se ti ricordi, 2007, 2008, 2009, 2010, noi siamo arrivati con la spazzatura fino al secondo piano, no? Fino al secondo piano dei palazzi, cioè noi eravamo in una situazione che neanche tu sei geografa, neanche, non sei geografa, non l'hai fatto, insomma, ah, l'hai fatto con Sommella, quindi che c'entri con la geografia? Ok. E, però, cioè, noi stavamo tipo delta del Niger a un certo punto come situazione ecologica, e non c'era, la destra non aveva candidature plausibili, anche perché invischiata in quella fase con il processo che poi è diventato il processo Bassolino, che è uscito poi ovviamente indenne da 18 capi di imputazione, quindi c'era noi stavamo con l'esercito che difendeva le discariche a Napoli. Si candida De Magistris, che era il volto nuovo, tra l'altro si è dimenticato, cioè il movimento l'ha dimenticato in 6 mesi, ma il soprannome di Luigi De Magistris era Gigina Manetta, perché lui aveva l'arresto facile, cioè lui faceva ordinanze d'arresto a tutta forza, tant'è vero che nei movimenti un attimo prima si chiamava Gigina Manetta, quindi lui è arrivato, diciamo, come il Deus Ex Machina in un momento in cui serviva il volto nuovo, e ha raccolto tutti quelli che avevano votato a sinistra per 20-30 anni dall'epoca della giunta Valenzi, che si era conclusa a causa del pentapartito nel terremoto nell'83, quindi tutte Napoli non ha mai avuto un sindaco di destra. Non ha mai avuto un sindaco di destra, no? Quindi quando arriva De Magistris, tutto quell'elettorato, che è lo zoccolo duro del centro-sinistra che va sempre a votare, ha votato in massa De Magistris. E quindi lui ha fatto questa cosa. Ha chiamato alcuni assessori rispondendo a delle logiche di ripartizione della cosa, e il primo mandato è passato sostanzialmente cercando di riportare la normalità soprattutto sul piano della gestione ordinaria dei rifiuti. E in questo De Magistris, per esempio, non ha stretto accordi con i potentati soliti, anche perché questi stavano tutti quanti sotto inchiesta. quindi non si poteva neanche fare una telefonata con l'imprenditore che fino a un momento prima aveva gestito i rifiuti negli ultimi 20 anni. Quindi c'è stata questa cosa. Quando si è arrivati alla campagna elettorale per la seconda, per il secondo mandato, tutto quell'elettorato che era ormai scontento era già spaccato, quindi avrebbe votato volentieri, si candidò la Valente, che non era nessuno politicamente, eppure arrivò a un 18-20%, perché come capita in Emilia Romagna, in Toscana, in tutte queste tradizioni di centralismo democratico, quelli che hanno sempre votato PC, PDS, DS e PD tornano a casa, cioè come Lessi, hanno il richiamo incorporato, dopo 3-4 anni puoi fare pure un esperimento così, però quelli poi tornano a casa, c'è poco da fare, e stavano tornando tutti a casa. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha fatto un'apertura a sinistra, inglobando all'interno dell'elettorato gente che non avrebbe mai votato, non mai votato lui. Gente che non avrebbe mai votato, perché c'è... Cioè l'astensionismo a Napoli è politicizzato, cioè noi che abbiamo fatto esperienza nei movimenti era sempre non votare Lotta. Quindi di fronte a questa cosa invece si è aperto uno spazio anche contemporaneo differente, perché non è che quell'analisi che abbiamo fatto noi negli anni deve essere sempre corretta. È successa un'altra cosa, anche teoricamente fondata sull'idea che i movimenti potevano entrare in dialogo con le istituzioni, no? Era successo in Sud America, in Inghilterra, quindi non è una cosa da demonizzare. Ma che cosa in cambio è stato messo sulla bilancia? Questa è la questione. Cioè la partecipazione di alcune centinaia di giovani a dei movimenti politici all'interno degli spazi consentiti dal comune, in cambio di che cosa? Cioè di quali analisi reale di quello che stava succedendo in città? Di quali forme di opposizione a delle cose che poi ci ritroviamo tutti quanti in maniera negativa dopo? Quindi si è fatta una palestra per 5, 600, 1000 ragazzi, va bene, ognuno prenderà la propria via, porterà a casa delle cose, svilupperà delle cose. Quando si aprono queste rotture dello spazio-tempo ordinario va sempre bene che qualcuno si appropria di uno spazio e si mette a fare delle cose. Cioè, per me una cosa è un valore assoluto questo, però se è un valore assoluto questo, è un valore assoluto anche la critica dentro a questo spazio, e la critica è stata abolita per decreto a Napoli all'interno degli spazi, eccetto forme proprio residuali, ma poi c'erano anche delle grosse disparità. Per esempio l'asilo Filangeri prendeva soldi per la manutenzione in maniera ingente, perché quello è l'unico bene immobile che ha un valore immobile reale. Quindi là per esempio arrivano 100-120 mila euro all'anno per rimetterle a posto, e si facevano tante cose, gestite però da chi? Da un gruppetto che si è autodichiarato il gestore di questa cosa e che gestiva in maniera ostruzionistica le assemblee, per esempio, no? Però quello era il fiore all'occhiello, De Magistris si è andato là a festeggiare dopo che aveva vinto. E quindi, sai, è vero che succedevano delle cose, se parli con i protagonisti, quello è stato un grande momento che a 20 anni, a 18 anni ti vai a riappropriare di uno spazio. Però, visto che io non sono giovanilista, faccio la parte della mia generazione, del vecchietto, e ti dico, secondo me successe anche un sacco di cose storte nell'amministrazione De Magistris. Non so se ho risposto. No, assolutamente. Ah, in prima persona, no? Ti racconto che cosa... No, perché un episodio mi è venuto in mente che era divertente, perché io proprio ho deciso, sono impazzito quando lui è andato da Ada Colau, che no, parliamoci chiaramente, cioè De Magistris è uno che ha studiato al liceo al Vomero, non si è mai fatto un'assemblea di istituto neanche, poi è andato a lavorare prima in Basilicata, poi in Calabria, è andato la prima volta a Barcellona, ha incontrato Ada Colau che stava facendo, che era il momento dei movimenti in spagnolo, in Spagna, degli indignados, è tornato, ha detto facciamo Los Napoletanos, che è il nome con cui si chiamano i Loacher in Austria. Cioè, se tu vai in un supermercato in Germania, cioè si chiama Los Napoletanos. Cioè, capito? Cioè, pensa a me quanto mi sono girati le cervella di fronte a questa cosa. Capito? E quindi ho detto, no, sta cosa... no, sta cosa è troppo. Allora, o vado in analisi o mi scrivo un romanzo. Siccome non tenevo soldi, questa è la cosa personale, ho scritto il romanzo. Allora faccio così, dato che purtroppo è colpa mia, abbiamo iniziato a parlare di tutto questo perché mi premeva a parlare di questa cosa. Io non so, non mi sono preparato esattamente il pezzo sottolineandolo, ma c'è una parte divertentissima dove si parla del gioco delle tre carte. A un certo punto il protagonista finisce nella sua indagine nei quartieri del centro, quindi nei quartieri spagnoli, e a un certo punto si rende conto che si caga in mano perché si è lanciato una roba più grossa di lui. E a un certo punto c'è questa scena surreale che da un momento all'altro uno pensa che partano le coltellate, lo uccidono, adesso è finito il romanzo, no, mancano ancora 100 pagine, così cosa succede, e ci sono questi tre soggetti che sono disposti tipicamente nel classico schema del gioco delle tre carte: una persona, il banchetto, e le altre due persone davanti, e quindi si sviluppa questo discorso di altissima filosofia riguardo alla natura dell'intelligenza, che mi è piaciuto di brutto, cioè proprio mi hai svelato una cosa, è l'intelligenza ti convince che troverai il modo di vincere il gioco delle tre carte, rispose l'altro, perché tu sei di gran lunga più intelligente del prestigiatore, tu sei il sommo detentore di un'intelligenza senza pari, tu sei l'eroe di 1000 partite a scacchi combattute e vinte contro te stesso nei meandri della tua stessa mente. Cosa vuoi che sia? Un trucco balordo di fronte alle impervie viuzze del tuo animo. E non importa quanto la tua intelligenza sia cosciente del pericolo mortale che sta acquattato là, proprio appena dopo l'inizio del gioco, tu, la tua coscienza e la tua intelligenza sapete bene che è meglio, no, che è meglio non provare, perché è proprio la probabilità del possibile a condannarti alla certezza dell'impossibile. Meglio sarebbe evitare, eludere l'insidia, se non fosse che la tua intelligenza non ci sta e ti dice: vai, prova, fidati, ce la mettiamo in tasca questo bifolco di un prestigiatore truffaldino, caro il mio credulone, e aggiunse e se la rise. E bellissimo, cioè questa cosa del fatto che l'intelligenza ti porta a fare cose, l'intelligenza, la fiducia in sé o nella propria intelligenza ti porta a fare cose stupide come giocare al gioco delle tre carte, dove sei di fatto per forza il pollo perché sei lì per fare quello, secondo me è una cosa molto intelligente, cioè molto intelligente, molto interessante, perché sennò impappinavo quei termini. No, esattamente, esatto. No, volevo chiedere sempre per il discorso prima del popolo di Napoli, quanto è Napoli popolare eccetera. Il popolo, tante volte lo vedo, l'ho imparato andando a lavorare, vabbè, io faccio un moratore, andando a lavorare a Rozzano, che è una periferia ricca tra l'altro di migranti dall'Irpinia dopo il terremoto dell'80, questa cosa di come si parla, come ci si pone, come ci si relaziona, il popolo, la gente povera, proprio la gente semplice, che magari già generazioni fanno i muratori e non ce n'hanno di gente laureata in casa, ha modi molto astuti per prenderti per il culo. Perché non capisci i riferimenti, non capisci se una battuta o no, non capisci il tono, il vocabolo, cosa vuol dire. Dice, t'accatto e te vendi, ti compro e ti vendo. Esatto. E quindi c'è, cioè, quello che mi sta andando è, mai, mai. E quindi questo che mi stavo chiedendo è, quanto c'è ancora di questa intelligenza a Napoli? Ce n'è tanta? Dimensione del popolare col problema dell'intelligenza artificiale, perché il problema della macchina di Turing, dell'intelligenza artificiale, qual è? Fino a che punto una macchina continua a eseguire, ve la dico in maniera molto banale, se c'è qualcuno più esperto mi corregge, fino a che punto tu reiteri un algoritmo per un tempo T prima che la macchina decide che è inutile continuare perché non otterrà il risultato sperato. Quindi quando, è come il gioco delle tre carte, no? Tu stai perdendo, lo sai che stai perdendo. Quando è che decidi di fermarti e continui? Perché il tuo gioco, come quello della macchina, è no. Io riesco ad arrivare al punto in cui riesco a decidere quando fermarmi. E questa cosa qua è proprio un tropos del teatro rinascimentale napoletano, in cui in realtà quelli acculturati, oppure quelli i grammatici, oppure gli artisti vengono costantemente truffati, però secondo un meccanismo non banale, cioè vengono truffati perché il popolo, o comunque le classi popolari, oppure alcuni individui non letterati, non educati, hanno la capacità intuitivamente di leggere qual è la tua passione, e su quella passione costruiscono l'esca che poi ti ingannerà. L'esempio più fulgido di questo teatro rinascimentale è la prima opera giovanile di Giordano Bruno, che si chiama Candelaio, che lui scrive ormai quando è in esilio a Parigi, ed è l'unica ambientata proprio a Piazza San Domenico, tra l'altro. Io mi immagino come doveva essere bella Piazza San Domenico nel 1578, cioè me lo sogno di notte, vorrei, sa cazzo, senza gli spritz. Ah no, quello era 10 anni fa. E lui costruisce questo dramma rinascimentale, che è bellissimo perché non c'è alcuna analisi psicologica dei personaggi. Ci sono tipo 48 personaggi e ogni personaggio è la lingua che parla. Non esiste un personaggio a tutto tondo, non ha soltanto una funzione della storia, ma ognuno è caratterizzato per il tipo di dialetto che parla, per il tipo di italiano che parla, per il tipo di latino che parla se è un dotto, per la commistione del maccheronico che adopera, perché lui era il grande lettore di Folenga, che è, diciamo, quello che ha inventato il maccheronico, no? Quindi di Mantova. È l'unico che lo cita in tutto il Cinquecento. È uscito un libro che parla di questo, cioè nessuno se l'era cacato, soltanto Giordano Bruno addirittura gli dedica una musa in un trattato che è Lo spaccio della bestia trionfante. E questa cosa è proprio una cosa del napoletano, ma non soltanto il napoletano. Se vai a Catania, a Palermo, ma non solo, se vai a Venezia è la stessa cosa. Io penso sia un modo proprio in termini di struttura dei sentimenti alla Stuart Hall, quindi struttura di classe dei sentimenti, come compensi la mancanza di educazione dal punto di vista degli strumenti formali che hai a disposizione per leggere le coordinate delle relazioni sociali in cui sei. Meno male che è stato registrato, meno male, perché io non saprei che cazzo... Prenderò punti dopo ascoltando la registrazione. Sui sentimenti di classe è iniziato a piangere, quindi non capivo più niente. Sì, vabbè. Mi hai comprato, mi hai venduto, vabbè, lo stesso. Magari non è mai esistito, perché Giordano Bruno, quello è stato bruciato. Sì. Quello lì era di Napoli. Ok. Allora quasi quasi non mi sono fatto fregare. Posso ancora giocare la prossima mano con le carte, va benissimo. No, grazie Chiara per aver pensato anche tu delle domande, comunque non c'è problema. Mi fai fare il solito nordico che fa il piano di salvataggio qua. Brutta, questa brutta. Esatto. No, non lo so, io in realtà qua avevo anche delle cose per cui il protagonista, lo diciamo, che si chiama... Una domanda che però è più letteraria che politica, se non mi odiate, un attimo, cioè... E nel senso che sicuramente ci sono tantissime citazioni, perché poi esistono dei libri, passatemi il paragone molto lontano, però esistono dei libri che vanno letti, no, a più livelli di interpretazione. Sicuramente io non sono arrivata al livello di interpretazione di tutti i riferimenti che tu volevi dare nel libro, o al quale hai pensato nel momento in cui l'hai scritto. Però ci ho pensato, nel senso, quali potessero essere i modelli ai quali ti sei sentito tranquillamente cullare, non per forza di emulare, nel pensare: io questa cosa la dico, come la dico, come un giallo, come la dico in un futuro della rivoluzione, cioè. Quindi la mia domanda era: quali erano i modelli a cui tu ti senti naturalmente legato in determinate... Ma ne parlavo ieri con il mio amico. Ah, ok. Cioè, veramente, ieri facevamo il conto, io penso di aver letto 10 romanzi nella mia vita, dico tra... forse qualcuno non ha neanche finito. Allora, sicuramente c'è il modo in cui è strutturato il libro, c'è, cioè, Il maestro e Margherita, sicuramente. C'è questa passione per Satana che... è bellissime pagine. Anzi, più che Satana. Però, scusami, no... Cioè, discussione che... Però senza microfono non vale. No, peccato, scusami, non c'è però... Non c'è Satana, né Lucifero, né il diavolo. C'è soltanto... Mannaggia. No, era scritto... Secondo me era scritto in dialetto. È stato fatto apposta per precluderlo ai nordici. Questo è stato un'altra cosa. No, Sant'Ennaro fa il mediatore, Sant'Ennaro media. a questa cosa. E poi un altro riferimento è Ballard, perché quel tipo di fantascienza in cui porti al parossismo quello che vedi nella contemporaneità, che è un modello di fantascienza, cioè senza proiettare troppo avanti nel tempo, oppure senza fissarsi sull'innovazione tecnologica, no? Ma fantascienza proprio come capacità di dilatare il tempo in maniera che poi determinate contraddizioni diventano esplosive, o prendono una via comica o prendono una via distopica. Quindi Il Condominio per me è un libro, quando voglio fare colpo su qualcuno gli consiglio Il Condominio. Ed ho sparato un'altra freccia al mio arco, si stanno riducendo proprio clamorosamente in percentuale ogni libro che dico. Un altro libro, aspetta Jacopo, che abbiamo detto ieri? Ah, Pynchon, L'arcobaleno della gravità. Io adoro Pynchon, quel suo modo di destrutturare la trama e poi di aprire mille immaginari, proprio lo adoro. Cosmopolis di De Lillo, perché penso che la parte che dicevi tu della festa, io l'ho scritta contro una festa che descrive De Lillo in Cosmopolis, perché De Lillo si tira questo viaggio in cui va da una parte all'altra di New York e a un certo punto si ferma dove si sta facendo l'ultimo rave della storia. Entra in questo rave il protagonista, che è un giovane, però è un giovane del capitalismo finanziario, quindi non ha contatto, non si è mai fatto un rave praticamente, Purell, quindi entra là dentro e vede questa cosa, e lui nell'analizzare il modo attraverso cui le persone danzano ritrova una dissociazione, no? Dice: questi stanno dissociati, secondo me lui c'ha il trip della chetamina in testa e quindi guarda con quell'occhio questa cosa di dissociazione. Io invece ho fatto una festa, come vedi, in cui diciamo ci sta tutti dentro, e penso sia più ispirata all'ecstasy che non alla chetamina o alla 2CB che un periodo girava, e quindi ci sta questo momento di rottura delle barriere empatiche. Io l'ho scritta proprio pensando De Lillo, secondo me non hai capito un cazzo delle feste, cioè l'hai presa troppo dal lato sbagliato, cioè se è una festa è una festa. E infatti c'è la prima festa di Napoli Segreta, ante litteram, in questo romanzo, quindi diciamo già la chiamavamo Napoli Segreta, ma non era uscita ancora la prima compilation. E poi che cos'altro ci sta? Non è che ho letto più niente. Ah no, Viaggio al termine della notte, Céline, sì, quello, come non prostrarmi davanti al maestro. E poi basta, poi ho letto giornali per lo più. Oh, okay. Cosmopolis l'avevo colto, e anche oddio, all'inizio cosa hai detto? Il maestro Margherita. E poi un altro, ho letto un libricino che invece si chiama, è un libro di Burroughs, no, Burroughs pure l'ho letto, Morbida macchina sicuramente mi ha influenzato tantissimo. Sulle questioni novocarniste, però c'è un libricino di Burroughs che si chiama Blade Runner, idee per una sceneggiatura, l'ha pubblicato Meltemi una decina d'anni fa, un libretto così piccolo, è una proposta di sceneggiatura che Burroughs fece, cioè che chiesero a Burroughs di scrivere questa sceneggiatura, e lui scrive una cosa che non c'entra niente col romanzo di Philip Dick. I Blade Runner sono questi che consegnano i farmaci illegali, perché c'è tutto un mercato parallelo del farmaco, e i Blade Runner sono quelli che riescono a scansarsi la polizia per consegnare questi farmaci, e da là in qualche modo, insieme a Blade Runner, il film, ho tirato fuori il mercato degli organi, che sta a un certo punto nel romanzo, che è una delle parti più distopiche in qualche modo. Assolutamente, ecco, distopico. Decisamente. Non ce ne sono più. A posto, ma non ho letto più niente. Ok. Io non ho altro, perché poi mi ha anche... Ce l'avevo le domande che ci volevi dire, ce l'avevi già lui. E vedi, mi ha anticipato, quindi mi ero preparata. Prego. Ciao, grazie per essere qui. Senti, ma cos'è rimasto della napoletanità? Cioè, visto da dei napoletani. Io ricordo che Pasolini scrisse forse all'inizio degli anni 70 alcuni trafiletti su Napoli, forse ricordi anche tu, dove c'era, esatto, c'era questa idea di sottoproletariato che poi si commistionava sempre con questa aristocrazia, perché non si può dire borghesia, e quindi questa città che tutto sommato era un unicum, che appunto al suo interno aveva la periferia nel centro e tutto sommato un dialogo comunque tra classi alte e classi basse che dominava, come dire, questo grande golfo. E cosa c'è oggi? C'è rimasto ancora qualcosa di questo? Grazie. Però, l'amatissimo PPP è anche lui complice di questo sguardo esotico. Sì, lo so. Questo, io in un altro saggio che ho scritto, proprio la prefazione è dedicata a questa cosa, perché Gennariello rappresenta proprio il preadolescente con gli occhi neri, che incarna il vitalismo che lui non vede più nella città, però io vengo dalla periferia di Napoli e i panni stesi nei vicoli non li avevo mai visti prima di andare in centro, quindi diciamo anche questa cosa va in qualche modo decolonizzata, questo sguardo su Napoli, per la cosa che dicevo prima, cioè il fatto che nell'immaginario collettivo nazionale, ma non solo, Napoli occupa una casella particolare che sostanzialmente è quello dell'altro interno, in qualche modo. E la napoletanità si è trasformata perché insieme a tante altre cose è diventato sempre più simbolico. Se io per esempio adesso ragiono, che ne so, dei fenomeni musicali collegati al Napoli Sound, adesso stanno uscendo fuori delle cose anche su vinile che vengono fatte a Napoli, ma il boom è successo con degli artisti che stavano fuori, no? Quindi si era un po' spazializzata questa napoletanità. Per me è un significante vuoto. Io sono andato sulla enciclopedia Treccani a cercare napoletanità e c'è scritto l'insieme di caratteristiche che connotano gli abitanti della città di Napoli. Poi ho visto Romanità, l'insieme delle caratteristiche che... Milanesità non c'è, ho verificato, però c'è italianità che è l'insieme delle caratteristiche che connotano la popolazione dell'Italia. Quindi, però è importante secondo me proprio comprendere, appropriarsi di quest'idea che è un po' un significante vuoto, perché nel momento in cui lo vedi come tale ti rendi conto che può essere riempito di volta in volta di tante cose. Allora, se serve per fare la promozione di Gomorra, napoletanità è il crimine spietato di gente che si squarta così, si sciabola. Infatti io faccio irrompere un comando in stile Charlie Hebdo dentro al luogo dove si sta decidendo come fare la prossima serie di Gomorra. Proprio mi sono levato le pietre dalle scarpe, esatto. E poi c'è per esempio invece tutta la questione della comicità, no? Per cui il napoletano è uno sostanzialmente rozzo, è uno che la macchietta, che si muore di fame. Infatti ci sta forse uno carino che è questo comico che io avevo immaginato, perché era il periodo in cui andava forte anche Made in Sud. E là era proprio, no, la messa in scena di quel tipo di napoletano, sempre rozzo, sempre caricaturale. Ecco qua. Città mi chiedono, ma poi tu lo segui Made in Sud? No, cioè, esatto. Quello che non voglio vedere. E diciamo, era questa la cosa che dicevo. Lo show era collaudatissimo. Una carrellata di comici meridionali che abusavano di tormentoni lobotomizzanti, interpretavano personaggi caricaturali, ricalcavano figure sguaiate e brutte, si esprimevano in modo volgare e sgrammaticato. In sostanza, mettevano in scena il napoletano e per estensione il meridionale, grezzo, ignorante, accattone, mentecatto, nulla facente, opportunista, menefreghista, approfittatore incivile che tutta l'Italia voleva vedere per sentirsi differente e superiore e ridere di quelle specie di subumani che spopolavano le lande desolate al di qua del Garigliano. Made in Somma, che Somma è una città dove si balla, dove si fa la tarantella, no? Si ballano le tamorre. Quindi sì, effettivamente è un po' una cosa che puoi riempire di volta in volta con quello che ti pare, che viene fatto regolarmente. Ma forse io a volte ho anche visto, per chi non è di Napoli, come una comfort zone, no? Identificare tutta una serie di caratteristiche in quel tipo di popolazione, proprio per quello che dicevi tu, dire io sono una cosa diversa. E non ti nego che oggi non percepisco questa cosa nella Milano che vivo, ma nella Milano che ho vissuto ai tempi dell'università era un continuo. Cioè, io mi ricordo questa scena in università, mio secondo giorno di università, sei di Napoli, sai suonare il mandolino. No, veramente. Sì, no, io ho detto no, veramente, però mia mamma c'ha gli spaghetti nella giacca. Così ho risposto. Cioè, questa cosa che il napoletano. Ah, non sai guidare il motorino? No, ragazzi, io non ho mai guidato un motorino. Quindi, solo a treno. Quindi senza casco. E quindi oggi vedo che. Però io vivo in una città come Milano, già quando ho visto a Bergamo ho visto un'altra cosa. Però già vedo in una città come Milano uno sguardo diverso. Però se ti devo dire lo sguardo del fiorentino e del bergamasco che ho visto nella mia singola vita in un determinato periodo storico, ovviamente, c'è un cliché che è un'aspettativa che confortava, no? Quindi sei venuto qua per lavorare, mo ci vuole Troisi. No, volevo solo viaggiare, mi piaceva Milano. Però hai capito, no, devi confortare quella loro aspettativa, che è una cosa che oggi in una Milano di oggi noto meno, ma che banalmente in 15 anni fa notavo fortissima. Sì, sì, adesso c'è molto hype. Sì, sì, sì, sì. Coldplay vengono e fanno il video con quello che ci ha tatuato tutto passa. Che noi abbiamo sempre fatto una questione guardata. Sì. La parte interna, non vicino al mare, prende il sole 8 mesi all'anno, ha un colorito mattone bruciato, e lui prende il sole tutti i giorni, è una cosa afrofuturista. Cioè lui sta proprio, ma è le uniche domande che fa, sì, sta con la col catarifrangente tutto il giorno, è l'unica domanda che fa, e poi cioè sotto là via vai di tossicomani, non si capisce niente, e lui sta là così, e l'unica domanda che ti fa è tipo, sto abbronzato? Che ore sono? Perché si deve girare. Questo mo, un soggetto del genere è diventato tipo testimone, che ne so, Valentina Nappi, la pornostar, fa la pubblicità a una piattaforma di videoporno, si fa le fotografie insieme a questo, a Mare Chiaro, che chiaramente sta fisso là, mo non lo muove più nessuno. Già prima stava là a farsi il bagno in uno dei mari più inquinati d'Europa, pieno di Escherichia coli, colibacilli. Quindi cioè, se veramente io non lo dico, io non è che sono tra i detrattori peggiori della mia città, però è vero che se ti fai un bagno là e c'hai un taglio ci mette un mese a rimarginarsi la fede, ci sarà un perché. Capito? Devi uscire, cioè invece dell'olio abbronzante il Benteland devi mettere. Vabbè, tu stai là, quello si fa il bagno 8 mesi all'anno. Perché. Quindi adesso c'è molto hype, magari non si fanno i tour guidati alle vele, sì. Cosa che io avevo previsto, mi sembrava una distopia, a me sembrava una distopia, ma si fanno i tour guidati nelle zone, in verità avevo inventato pure un gioco, cioè tu potevi fare la full experience pagando diverse tariffe, vuoi essere coinvolti in una rapina, vuoi andare a sparare pure tu, quindi tu, esatto, firmavi una liberatoria, sai, tipo quelli del bel jumping, in cui esatto, e tu però firmavi la liberatoria e poi puoi fare qualsiasi esperienza vuoi tu. Sì, esatto, bravo. Bellissimo, l'odio profuso in questo libro per la serie Camorra. Gomorra, non è anche lista. Ma tu non capisci. Atto Morra nel libro, quindi mi sono incartato nel leggere quello del libro. Bellissimo. E io volevo dire l'ultima roba che avevo pensato riguardo al libro, che è stata anche la prima cosa che ho pensato, perché in questo libro c'è anche una definizione, secondo me, bellissima di comunismo. E un protagonista che poi cioè è bruttissimo, cioè leggetevi il libro, è il protagonista fino a un certo punto, poi non è più il protagonista, ed è una cosa che mi ha lasciato venire amaro in bocca, ma ci sta, va bene così. E niente, a un certo punto il protagonista, che tanto emerge a un certo punto, che non ci se ne io non mi sono accorto che a un certo punto era comparso un personaggio, forse perché ho letto, ma ero un po' stanco, però cioè emerge che sembra quasi così, che si volesse citare un personaggio famoso, perché si chiama Dillinger, come il famoso John Dillinger, e quindi sembrava una roba tipo c'erano gli spiriti di qualcuno che parlava e c'era anche lo spirito di Dillinger, invece no, poi prende la Vespa, tanto ho notato adesso calibro 9 la Vespa, ma vabbè, l'ho riletto ora. Ah, è proprio la tua. Che stile. No, vabbè, allora lui, cioè, si presenta così, parlando con la sua compagna, che è già ex compagna nel momento in cui inizia a parlarne. Per me è come se ciò che è condiviso con gli altri fosse qualcosa su cui nessuno può vantare diritti di precedenza. Di sicuro non io, almeno. Faccio un saltino. Il mondo è di tutti quanti, e non va bene che chi non si butta sempre in avanti, chi non allunga le mani, chi non insiste, chi non è petulante, chi non si infila, non trova mai niente, perché prima di lui è passato il diritto di turno a prendersi quello che doveva essere equamente distribuito secondo diritti di precedenza civile. Cioè, è così, io lo so, ma non dovrebbe essere così, e siccome non dovrebbe essere così, io non sono così, punto. Che secondo me è veramente una bellissima... un bellissimo modo di pensare come dovrebbe essere il mondo giusto, secondo, adesso largo, noi, questo noi molto fumoso in particolare, però secondo me è bellissimo. Il fatto che venga poi faccia, mi è spiaciuto, non facciamo gli spoiler di niente, mi è spiaciuto moltissimo, però molto bello veramente, complimenti. Allora, la napoletanità all'estero, gli Stati Uniti, la Ferrante Fever, come la vedi tu, la visione che dà Ferrante della città, la vita del rione? Vai, vai, perfetto. La citazione è precisa, dalla riga alla riga. Però la Ferrante non l'ha mai letta. Non l'hai mai letta? No, è vero, non c'era, è vero. No. Manca? Guarda, una pila di roba è più interessante, poi quando arrivo alla Ferrante vi faccio sapere. Hai visto quanti libri ho letto? Cioè, forse Kafka lo leggo prima della Ferrante? Non lo so, sì. Okay. C'è troppa roba. Okay. È una comodità dire questa cosa che non leggo, quindi mi sottrae una serie di... Così doveva andare fu un successo planetario. Una tetralogia tradotta in 427 lingue e adattata a serie TV d'esordio della neonata Tamorra S.P.A. La misteriosa scrittrice sotto pseudonimo narrò magistralmente l'infanzia difficile di Cecilia, i suoi primi amori e la passione per lo sport che l'aveva salvata dai disastri del suo ghetto. Raccontò di essere stata la migliore amica di Cecilia ai tempi in cui entrambe vivevano sullo stesso ballatoio antistante alle stamberghe squallide di uno stabile socialdemocratico in un lotto di case popolari all'estremità di un misero quartiere sottoproletario ai margini della periferia degradata dell'area orientale ai confini estremi della città di Napoli. Nel romanzo Cecilia era cresciuta tra mura grigie, infissi in alluminio anodizzato scadente e puzza di carciofi arrostiti abusivamente per strada, soprusi quotidiani e povertà, vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte di suo padre, burbero, molestatore, autoritario e ubriacone, in conflitto quotidiano con la madre, totale analfabeta, succube introversa che sapeva e taceva. L'industria editoriale trasformò Cecilia nella personificazione di un intero filone letterario ambientato in Europa meridionale. La critica lo battezzò romanzo di formazione, diversamente dickensiano. Nel mondo ispanofono la sua storia inaugurò il genere della novella deformation, come deformazione. Nel mondo anglofono, altresì, il personaggio di Cecilia divenne così popolare da rendere di uso corrente un neologismo con il quale il dizionario del politically correct autorizzava a definire le ragazze dei quartieri disagiati, le personalità che recavano i segni indelebili dei loro drammi infantili. Gli adolescenti difficili, costretti il più delle volte all'evasione scolastica, nonostante fossero dotati di talenti superiori alla media dei propri compagni di scuola più fortunati. L'aggettivo era Sicilian. E poi c'è una frase di discorso diretto. Zarina is very good in algebra. Unfortunately, she has dropped out of secondary school because she is Sicilian. Tra le teenager di elevato censo, invece, il suffisso fu leggermente modificato per stigmatizzare gli atteggiamenti delle coetanee che fingevano di soffrire per la loro bassa estrazione sociale e mentivano per ottenere indulgenze o agevolazioni a scuola. Zarina is very lazy and she's constantly on her cell phone chatting with my beloved Brad. But she pretends to be inattentive because her family is economically affected by the overtaxation of minimum wage, as well as by the cuts to public health budget. What a silly Cecilia. Te lo giuro, però sono stato bombardato. Non posso non sapere di che parla. C'è l'odore del cavolfiore. Cavolfiore? Non lo so, guarda, non l'ho mai... No, però io vengo da una periferia degradata, il carciofo, vuoi mettere il carciofo sotto il ponte, è un'altra cosa. Non sento l'Africa. No, ti giuro non l'ho letto. Però non so, cioè non l'ho mai letto, però so esattamente di che parla. Più di Kafka. Non l'ho letto, giuro. Io mi sono interrotta alla 50esima. Io non l'ho letto, cioè, e non lo leggerò. Va bene, allora alcuni avvisi a questo punto. Se vabbè, io li faccio, questa gente vuole andare avanti, si va avanti, non è un problema. Abbiamo qui delle copie del libro da comprare. Grazie, la nostra copia. Perché è venuto l'editore? L'editore di Scampia. Attenzione. Fantastico. Se volete, c'è il nostro fantastica nuovo punto libri che inauguriamo stasera, se volete prendere qualche altro libro e basta. E noi torneremo il mese prossimo con un'altra presentazione che sarà, lo sa Miriam, che però non è presente, Michela, giusto, Rosso Bandiere e tante altre cose, un ricercatore che viene da Ginevra, ci parla delle baglie parigine, un lavoro che ho fatto con l'università. E Max, devo ringraziare tantissimo Gennaro. Grazie a voi davvero, grazie davvero. Grazie tantissimo. Ok. Grazie.